Incontri di Gianfranco Fabi. Con l'inconfondibile preludio del Carmen di Bizet iniziamo l'incontro di questa sera. Ecco, non c'è forse un motivo migliore per concludere anche la giornata della donna, oggi 8 marzo, e concludiamo con una donna in carriera, come si dice in questo periodo, Anna Puccio, segretaria generale della Fondazione Accenture. Buonasera Anna Puccio. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Buonasera anche agli ascoltatori. La Carmen di Bizet, ecco, una figura femminile forse un po' enfatica, un po' retorica, un po' dai tre tempi, però le figure femminili forse vanno prese sul serio. Sì. Quindi la giornata della donna ha ancora un senso. Ma sì, ha ancora un senso, però vissuta così, ricordandosi delle cose, ascoltando la Carmen, che per me è un ricordo passato, insomma, come per tutti probabilmente, però... Certamente è una musica affascinante, sì, come molte donne sono affascinanti, però non c'è solo fascino, c'è anche una partecipazione della donna nel mondo attuale. Ma sentiamo ancora un attimo di Carmen, prima di parlare di questo. A Carmen di Bizet, allora, la giornata della donna, Anna Puccio, segretaria generale della Fondazione Accenture. Com'è la situazione delle donne nel mondo del lavoro adesso, in Italia, oggi? Allora, la situazione delle donne purtroppo chiaramente subisce di tutto quello che il mondo del lavoro di fatto subisce. Quindi quando parliamo di disoccupazione giovanile, ultimamente si dimentica il tema donne, ma il tema donne lì è centrale, no? Certo. Gli indici che si sperava arrivassero al 50% dell'occupazione femminile con dei target di Lisbona irraggiungibili sono di fatto scesi, quindi siamo ritornati al 46%, quindi... È evidente che non c'è un trend positivo. Certo, c'è una partecipazione delle donne abbastanza limitata, soprattutto in Italia. Come no, infatti io mi riferisco poi all'Italia. Certo. L'Italia è, diciamo, dire che è tradizione più che altro non è giusto. Ecco, magari può essere corretto per alcuni, certo. ma non è giusto. Diciamo che per tanti, tanti anni, ma parlo di 20, 30 anni, non ci si è veramente dedicati a capire come si stava evolvendo anche il bisogno della donna che lavora. E quindi certo. ci si era fermati alle grandi lotte sulla maternità degli anni 70, ma ci sono tante altre cose che invece bisogna invece fare. Stanno crescendo le donne nei consigli di amministrazione, nei vertici delle aziende. Le quote rosa stanno un po' funzionando. Sì, infatti, dall'altra parte si è un po' deciso, credo, alla fine di iniziare dal top anziché dal bottom, ma perché io penso che siccome si parla di questo vetro di cristallo che bisogna rompere, quando devi rompere un vetro, se ce l'hai sopra devi spingere, se ce l'hai sotto i piedi è molto più semplice spaccarlo, è come certo. il ghiaccio, no? E quindi questa cosa è un po' la metafora delle quote. Poi spero che una volta rotto le cose accadano. Quindi qualcosa si sta muovendo. Assolutamente su questo profilo. Sì, su questo profilo direi che la legge parlamentare, dove il Parlamento ha dimostrato sicuramente un cambiamento di visione su quello che può essere il ruolo della donna ai vertici, e ha avuto un riscontro, io direi, eccellente per quanto riguarda poi i numeri. Ci è passati dal 5% di presenza al 23% di presenza femminile nei consigli, ma si va avanti ancora. Io stimo che alla fine di questo percorso legislativo, perché di fatto, cioè, non è corso di legislativo questo percorso, insomma, nel corso della legge, che è una legge a tempo, si arriverà anche al 40. Sono ottimista, ma io credo che si arriverà al 40. Ecco, ma concretamente lei è anche presente, oltre che essere segretario generale della Fondazione Accenture, ne parleremo tra poco, in consigli di amministrazione importanti come Luxottica, come Amplifon, come Ca' Foscari. Come ci si trova da donna all'interno dei consigli? Diciamo, non c'è più un pregiudizio sfavorevole, no? Allora, devo dire che io ho cominciato da piccola, volendo che... Quindi sono stata una delle prime donne in un consiglio di società quotata, quindi... E venivo da due esperienze di amministratore delegato di multinazionali di telecomunicazioni importanti. E prima ancora avevo lavorato all'estero tanti anni, quindi se vogliamo, magari non sono il prototipo della certo. persona che entra nei CDA, quindi avevo già esperienza, avevo già competenza e me la sono anche costruita. E quindi poi come fa una donna, cioè, hai due possibilità, o ti metti in parte oppure stai sul ta siedi al tavolo, ecco, io tendenzialmente di carattere siedo al tavolo. E Quindi è tu? meglio essere tra i primi che non al seguito. Indubbiamente, però, ci vuole anche del merito, ci vuole dell'esperienza. L'esperienza costituisce anche delle caratteristiche di merito. Credo onestamente posso dire che anche il fatto dell'iter parlamentare legislativo per arrivare a quella famosa legge della rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione abbia portato il suo corso, insomma, sia riuscita ad andare avanti proprio perché non era solo un principio di equità, ma era proprio basato sul merito. E qui vado un attimo avanti sui numeri dando due flash. Prego. Per ogni 100 uomini che si laureano insomma, in Europa, diciamo anche in Italia è ancora peggio, si laureano in contemporanea 150 donne. Questo è un numero che tra l'altro appunto va sempre più Differenziando. differenziandosi a favore delle donne, quindi è chiaro che c'è un grande bacino di talenti che è nostro dovere, perché sono punti di PIL che perdiamo, è nostro dovere far entrare nel mondo Certo. economico, della ricerca, dell'insegnamento, dei media, da voi. Anche perché hanno da portare qualcosa, non è né di più né di meno, secondo me, ma è una diversità positiva, cioè dei valori positivi. Anche la femminilità non ha un valore che può portare a prospettive diverse, a modi diversi anche di vedere che si possono integrare e quindi migliorare complessivamente anche la gestione di un'impresa. Sì, credo che sia proprio questo del modo diverso di vedere le cose. Le cose sono sempre lì davanti a te, ma c'è un modo diverso di approcciarle. Certo. Ci sono dei ragionamenti che si possono fare, che sono inaspettati a volte, E possono essere complementari, e che non dall'altro canto siamo certo. due sessi complementari, no? E Infatti. quindi perché non anche i cervelli? Allora, Fondazione Accenture, Sì, dobbiamo parlare ecco, anche di questo. certo. Iniziamo da Accenture. Che cos'è Sì. Accenture per chi non la conosce, in due Sì, parole? certo. Allora, Accenture è una grandissima multinazionale quotata alla borsa americana. Nasce americana, ma è bene ricordarsi che è presente in Italia dal 1957. È Ed è una società una che grandissima società di di consulenza, consulenza. prevalentemente di servizi strategici, di strategia e di servizi tecnologici. Ed è veramente una società che ha fatto crescere questo paese proprio per il prodotto che offriva di supporto strategico e supporto tecnologico di sistemi informativi, eccetera. E ancora oggi, diciamo, è sicuramente una delle prime, una delle più importanti. E anche qui a Milano sarà protagonista perché di fatto è un Global Official Partner di Di Expo Expo, 2015. proprio per tutto quello che riguarda, diciamo, la piattaforma tecnologica di servizi e digitali soprattutto. Quindi tutto quello che succederà, diciamo, di tecnologico e digitale in Expo, sappiate che camminando C'è lo zampino di no, Accenture. c'è più che lo zampino di Accenture, cioè Accenture ha permesso che questa cosa di fatto Avvenisse. avvenisse, sì. E Fondazione Accenture perché una società di questo tipo, una multinazionale presente poi a supporto in relazione con le grandi, con piccole, grandi e medie imprese, ha sentito il desiderio e la volontà di fare una fondazione a parte. La fondazione Accenture, tra l'altro, non è una cosa di ieri, ma è una fondazione che Accenture ha deciso di costituire già 12 anni fa. Quindi ha una sua storia, non è un ultimo così, non è una cosa dell'ultimo momento. Ha una sua storia ed ha un suo ruolo che forse si è anche evoluto negli anni, ma che certamente è andato da sempre nella direzione che sia più ricerca o che sia invece più fare le cose più digitale, sicuramente rispettando il DNA di Accenture, che è chiaramente la tecnologia e il digitale, si pone come soggetto abilitante, io dico concettuale e digitale, nel senso che non solo noi aiutiamo a portare, a trasportare tecnologia digitale verso il non profit. Chiaramente il nostro interlocutore primario è il mondo del non profit, che è all'altezza di Certo. dialogare con noi. Quindi possiamo dire che è un collegamento tra profit e non È profit. certamente un collegamento attivo, Attivo. non è solo un tubo. Incontri. Anche Ancora con le note della Carmen di Bizet, con la voce di Maria Callas, L'amour à nos rebelles, riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Anna Puccio. Abbiamo parlato anche partendo dalla Carmen nella prima parte della Festa della Donna, del ruolo delle donne, un ruolo crescente, un ruolo ancora troppo marginale, nel senso che c'è ancora molto spazio e molte possibilità per le donne nella realtà aziendale anche italiana. Abbiamo parlato della Fondazione Accenture, Anna Puccio è segretario generale della Fondazione Accenture, innanzitutto di Accenture, che è una grande multinazionale, una multinazionale americana, ha più di 300.000 professionisti in tutto il mondo, ha una grande sede anche in Italia ed è una società di consulenza, di supporto alle imprese, soprattutto per tutto quello che riguarda l'innovazione, la digitalizzazione, l'operatività delle aziende nei campi più moderni, più appunto in cui è richiesta una competenza tecnologica sempre più avanzata. Ma in questo poi Accenture ha creato anche una fondazione, e ci spiegava Anna Puccio, una fondazione che vuole mettere un po' in rapporto profit e non profit, che vuole avere anche la possibilità appunto di integrare non solo la visione tradizionale delle imprese, ma anche non solo una responsabilità sociale, ma anche un'apertura verso il mondo del non profit. Allora, come si sviluppa questa realtà, questa convergenza tra queste due dimensioni ugualmente che hanno grande dignità all'interno del sistema economico? Anna Puccio. Sì. La Fondazione Accenture, come dicevo, ha avuto un suo percorso, perché comunque appunto sono 12 anni che esiste, e sicuramente si trova un po' a una terra di mezzo, no? Si trova quello che possiamo dire il fondatore, che è Accenture, che come giustamente diceva lei, comunque è una grande realtà in Italia, con addirittura 4 sedi sul territorio, quindi non è una concentrazione milanese, certo. È proprio sul vostro territorio, e Fondazione Accenture che ha deciso nella sua strategia di diventare quell'abilitatore appunto insomma concettuale di pensiero, ma anche di trasferimento tecnologico rispetto al non profit. Quindi che cosa vogliamo fare noi? Noi abbiamo sposato il concetto che è solo tramite la convergenza, e cioè il lavorare insieme tra il profit e il non profit, che si possa creare del vero valore aggiunto che riguarda il mondo sociale. Ecco, può fare un esempio concretamente, sì, di come avviene, qualche iniziativa concreta? Assolutamente. Ecco. Noi abbiamo come fondazione una piattaforma tecnologica che gestisce tantissimi call for ideas, che hanno sempre come tema fondamentale ricorrente un impatto sociale. Quindi le iniziative che vengono proposte, che applicano ai nostri concorsi, alle nostre call for ideas, che non solo sono nostri, perché noi cediamo volentieri e anche gratuitamente la nostra piattaforma ad altri soggetti che la vogliono utilizzare sotto la nostra guida, perché abbiamo, certo, tantissimo know-how sia tecnologico ma anche di come si procede. Da un lato quindi idee che emergono, e dall'altro lato aggreghiamo massa critica di risorse che possano poi rendere queste idee vive. Sono programmi mondiali, dato che sono programmi che per Fondazione Accenture Italia si focalizzano sull'Italia prevalentemente, che in questo momento comunque ne ha bisogno, quindi l'ambizione internazionale c'è, ma in questo momento ci stiamo dedicando all'Italia. Il grande progetto che Fondazione Accenture, con Accenture sicuramente, ha portato alla luce, ha fatto un grandissimo concorso sull'arte e sul turismo sostenibile. In palio c'era 1 milione di euro, 700.000 euro erogati in cash dalla fondazione e 300.000 euro invece in consulenza strategica di Accenture, come nella modalità del pro bono, che è una delle cose che sta nell'ambito del volontariato che i manager Accenture e managing director Accenture danno. Ecco, questa è una cosa molto concreta. È molto concreta, come ci siamo arrivati, non scegliendo questo, scegliendo quello, perché conosco questo, conosco quello, ma attraverso un grandissimo concorso che io chiamo democratico. Più di 700 progetti sono giunti sulla nostra piattaforma, quindi hanno applicato a questo concorso. Ci sono stati vari livelli di giuria per poi arrivare a selezionare Trame di Lunigiana, che è una zona molto bella ma depressa, un po' abbandonata, che sta tra l'Emilia-Romagna, la Liguria e la Toscana, quindi un pezzo, quel pezzo della Cisa che molti di noi Si passa in un hanno la attimo, fortuna di certo. passare per andare giù verso la Versilia o verso la Liguria o ancora più giù. E un gruppo di associazioni e anche di aziende profit si sono messi insieme. Noi privilegiavamo questa cosa del mettersi in rete, che è una cosa importantissima, e soprattutto privilegiavamo chi capiva il concetto della convergenza, cioè bisogna che profit e non profit trovino un dialogo, si mettano insieme perché hanno capacità diverse, competenze diverse, uno aiuta l'altro. Quindi anche realizzando dei progetti E hanno nuovi. realizzato questo progetto che sta andando benissimo, che noi stiamo seguendo, perché li stiamo anche, diciamo, incubando Incubando. virtualmente, perché non siamo lì sempre, ma andiamo spesso, contatto diretto, ci si vede quasi ogni settimana, e ci sarà il grande lancio di Trame di Lunigiana, del rilancio di questo territorio attraverso una piattaforma tecnologica molto importante e molto innovativa, proprio ai tempi di Expo, diciamo. Quindi non solo un progetto per valorizzare un territorio visto dall'esterno, ma anche all'interno, per dare a questo territorio i supporti tecnologici di cui ha bisogno per Assolutamente. essere collegato col mondo esterno. È un progetto proprio di rete sia per come nasce, ma per come deve svilupparsi. Ecco, mi sembra che al fondo ci sia anche un po' di volontà di valorizzare i giovani, no? Cercare di far maturare le loro idee, dare loro degli spazi. Come vede i giovani nella società Assolutamente. attuale? Noi ci dedichiamo tantissimo ai giovani e lo faremo sempre di più. C'è un altro progetto che vorrei citare, anche perché ci troviamo a Milano e quindi c'entra Milano, che è sempre sulla linea di questo qui che ho raccontato di Lugiana. L'abbiamo chiamato ARS per dare un capitolo, per dare un nome a questi progetti. Questo secondo progetto si chiama Video Make ARS. Abbiamo lanciato una call for ideas a giovani under 30 che volessero cimentarsi nel videomaking, ma soprattutto c'era un tema molto difficile, era raccontare la Milano città d'arte nel Fuori Expo in 3 minuti attraverso un video, anche se non eri un videomaker, quindi dovevi imparare un mestiere anche. Tant'è vero che hanno partecipato anche delle classi, delle scuole. E infatti, nei 4 finalisti, che poi sono tutti e 4 premiati, c'è anche un liceo di Milano che avevano un insegnante regista che quindi ha. Questo progetto è stato fatto insieme a noi, che l'abbiamo, diciamo, costruito e anche finanziato, alla Fondazione Milano Scuole Civiche, quindi con la Scuola Cinema di Milano, con l'assessorato alla cultura che ci ha indicato le famose 6 icone che rappresenteranno la Milano durante il Fuori Expo, le 6 icone, i quadri famosi milanesi. E tutto questo verrà utilizzato come strumento di comunicazione da Expo in città. Ecco in città. E la cosa bella è che ci sono i giovani sotto i 30 anni a cui è stata data un'opportunità di imparare. Hanno fatto aula, hanno fatto tante ore di aula, hanno fatto e-learning e sono anche loro incubati virtualmente dai docenti della Scuola di Cinema di Milano. E questo è un bellissimo progetto, speriamo che si sta per concludere, lo presenteremo al pubblico il 31 marzo e saranno i 4 film che racconteranno la Milano Città d'Arte. La Milano Città d'Arte, la Milano dell'Expo, Sì, mancano un po' più di 2 mesi. manca poco, ma noi per esempio siamo pronti, saremo pronti un mese prima. Come sente la città, ma anche la realtà italiana verso l'Expo? Possiamo avere fiducia che questo evento sia veramente qualcosa che dia l'impressione di un'Italia che funziona? Io sono un Expo ottimista, quindi sta parlando con un ottimista e sì, ritengo di sì, ritengo che poi l'accelerazione tipica che l'Italia fa, ma in particolare che Milano fa, Milano non lascia, come si dice in inglese, any stone unturned, no? Cioè, non lascia le pietre rovesciate così, non ribalta tutto e quindi fa tutto e arriveranno fino in fondo, secondo me sarà un grande evento e anzi dovremmo essere tutti noi cittadini pronti ad accettarlo, a gestirlo e anche ad ampliarlo, Certo, non aspettarsi qualcosa, ma dare il proprio apporto, ognuno per quello che può perché ci fare. sarà bisogno, secondo me ci E sarà bisogno del cittadino proprio civico in certo, quel periodo. chi abbia un po' di ottimismo, forse questo è un Sì, dato, perché è un esatto. paese che forse sta perdendo un po' Sì, di volontà, sì. si abitua un po' a piangersi addosso un po' Sì. troppo spesso. Ma io ho avuto questo esempio con questa call for ideas dei videomakers per Milano Città d'Arte, dove abbiamo chiaramente sollevato un sacco di buon umore e tutti sono contenti. Allora, se si può essere contenti in un progetto di giovani che fanno una cosa per Milano Città d'Arte, Milano Certo. Expo, eccetera, ma perché non lo possiamo fare tutti, no? Ecco, Anna Fuccio, segretario generale Fondazione del Sento, siamo verso la conclusione del nostro incontro, potrebbe durare ancora a lungo, lei di esperienze ne ha fatte molte anche all'estero, ne ha fatte molte in Italia, in aziende di diversi tipi, orientate ai consumi, orientate ad altre aziende e così via. Cosa, non dico un bilancio che forse non è neanche necessario e opportuno, ma quale valore può trarre dalla sua esperienza fino ad ora guardando in avanti? Beh, allora, io ho fatto per tantissimi anni quello che lei diceva all'inizio, no? Il manager in carriera, e l'ho fatto in modo cosciente perché volevo, è stata una scelta. L'ho fatto in Italia, ma prevalentemente l'ho fatto all'estero. Rientrando in Italia ho anche continuato per parecchi anni, e poi ho deciso di investire le mie energie anche in altre cose. Quindi ho incontrato il mondo del non profit, ho fatto un'esperienza importante nel non profit grossa, nelle imprese sociali, nel gruppo imprese sociali più grande che c'è in Italia, con 45.000 addetti, che si chiama CGM, il gruppo CGM. E questa cosa mi ha dato veramente, ha segnato la mia vita, perché con una formazione culturale di impresa multinazionale, marketing e strategia, avendo fatto mi sono delegato eccetera, io adesso posso dedicare gran parte delle mie risorse, direi il 40% delle mie energie, io le chiamo, anziché risorse le chiamo energie. Possiamo chiamare talenti magari? Possiamo chiamare i talenti, però poi alla fine si tratta di forza, di alzarsi, certo, la mattina, dormire la sera, e al non profit, è organizzazione del non profit, e Fondazione mi dà questa possibilità e io mi dedico sempre di più in questi e questo ambiti. È importante, e questo sarà quello che farò anche per una crescita della dimensione sociale ed economica, che ci siano dei valori di fondo che, sì, che possano coniugare appunto profit e non profit, quella dimensione dell'economia che non è solo un'economia del PIL ma è anche, sì, l'economia del benessere e anche dell'equità. Io penso di interpretarlo, almeno io credo di fare delle cose giuste, di interpretarlo bene con questo mio doppio ruolo di consigliere indipendente in società che poi sono quotate o anche non quotate, charities, università, come consigliere indipendente, perché lì riesco a portare tutte le mie, diciamo, i miei talenti o le mie capacità, certo, diciamo, di manager o di director, insomma, in quel tempo, ma allo stesso tempo avere la mia visione sulla sostenibilità, ecco. Che è importante, che poi metto in pratica chiaramente di più. E quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Assolutamente, ma queste saranno le mie due autostrade. Avanti su questa strada, grazie mille. Grazie a voi, grazie a lei. Ad Anna Puccio di essere stata con noi questa sera, proprio nel giorno della festa della donna. Anna Puccio, segretario generale della Fondazione Accento. Ringrazio anche Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e per quel che resta, buona domenica.